Salve. L'esperienza di Donne di Carta per me come editore è fonte di tantissime riflessioni, perché dal punto di vista del lavoro della conoscenza di cui faccio parte, sono un imprenditore che lavora e utilizza le risorse del volontariato culturale, cioè le persone che sono socie dell'associazione. Ed è una dimensione completamente nuova, a mio avviso, che andrebbe pensata di più per costruire un vero modello, direi ecosostenibile, di produzione della conoscenza. Io immagino l'editoria e il lavoro della conoscenza editoriale come una sorta di ritualità teatrale, in cui tutti gli attori debbano in qualche modo mettere in scena dei valori comunitari e dei valori anche personali, ideologici, artistici, estetici, ma sempre in riferimento, quindi come forma di scambio e di comunicazione con una comunità, che in quei valori forse si ritrova, forse li mette in discussione, ma partecipa alla loro costruzione e costituzione. Tutto questo in un mondo mercantile si perde in realtà e quindi lo sforzo di un volontariato culturale che cerca delle forme di alleanza con l'imprenditoria e l'industria dei contenuti dovrebbe proprio cercare di definire un modello alternativo. Un modello alternativo che permetta al volontariato di non essere inteso come la risorsa da sfruttare, ma come un investimento sull'impegno, sulla crescita, sulla formazione, trasformando quindi un'esperienza gradualmente in competenza. E dall'altra dovrebbe permettere all'imprenditore di cominciare a immaginare una visione diversa del fare cultura che sia effettivamente una circolarità, una circolazione di beni e di valori. Io credo che il web, da un certo punto di vista, attraverso la produzione continua di testate giornalistiche, di riviste letterarie, di luoghi virtuali in cui si discute di libri e in cui non si, ci si difende dietro l'etichetta delle caste, possa permettere una maggiore liberazione da quelli che sono appunto i ruoli precostituiti e quindi i vizi dell'industria dei contenuti. Ma c'è necessità di fare rete, di costruire un modello alternativo, ecosostenibile, che in qualche modo possa poter contare su tutte queste realtà, dai movimenti culturali di volontariato che esistono nelle piazze reali a quelli appunto che esistono nelle piazze virtuali, perché la dispersione, l'atomizzazione diventerebbe la caduta di forza di queste risorse. E credo che valga la pena fare rete e riflettere anche sulle contraddizioni tra il lavoro della conoscenza portato avanti dagli addetti e il lavoro della conoscenza portato avanti dai volontari. Dovrebbe essere, diciamo, una capacità collettiva, ecco il senso di comunità e di messa in scena teatrale a cui mi facevo riferimento, che possa farci vincere a tutti la scommessa che fare cultura sia un progetto di vita e quindi un lavoro buono per tutti. Così potrebbe diventare veramente un bene comune. Riflettiamoci. Grazie.